La parola di Dio afferma: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Geremia 17:9. Vi sono persone che per tutta la vita cercano di non essere ingannate dal prossimo, senza rendersi conto che l'ingannatore o l'impostore per eccellenza si trova proprio nel loro essere. Quante persone si definiscono cristiane senza esserlo, mentre alcune lo dicono con disprezzo, altre l'affermano con sincerità, proprio perché esistono persone sincere che pensano di essere cristiane nonostante che il loro comportamento le contraddica. È opportuno valutare le caratteristiche del cristiano. Qualsiasi persona può ingannarsi con delle convinzioni sbagliate, ma i fatti sono realtà indiscutibili. L'Apostolo Giovanni scrisse: «Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo». 1 Giovanni 4:20 e ancora: «Chi dice, io l'ho conosciuto Dio, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui». 1 Giovanni 2:4. Un cammino che non corrisponde alle affermazioni rende dunque l'uomo bugiardo. Una persona che si definisce cristiana deve inevitabilmente avere un cammino conforme alla sua testimonianza. Come deve essere dunque la vita di un cristiano? Quali sono le prove esterne di un cristiano? Quali sono le caratteristiche di un cristiano? Limitiamoci a esaminarne alcune. 1. Il cristiano ha una fede cristocentrica e apostolica. Efesini 2, 19-20. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. I primi cristiani erano membri della famiglia di Dio. La loro fede era edificata sull'insegnamento degli apostoli e aveva come pietra angolare Gesù Cristo. Dopo 2000 anni, il fiume della fede cristiana si è inquinato ed è più che mai opportuno ritornare alla fonte. È un fatto indiscutibile che i primi cristiani avessero una sola autorità definitiva, le scritture. Esse erano per loro un'autorità al di quente, fuori del calderone dei pensieri dell'uomo, relativistici, mutevoli, ristretti. Ciò che distingue il cristiano dal credente è l'autorità da cui dipende. Mentre per il credente l'autorità è la propria ragione, se è ateo, Buddha, Maometto, eccetera, se è religioso, la parola di Dio unita alla tradizione. Se è cattolico, la Bibbia contiene la parola di Dio, il protestante liberale. Per il cristiano, invece, l'unica autorità in materia di fede e di condotta è solo la parola di Gesù Cristo trasmessa dagli apostoli e dai profeti. Il cristiano è colui che considera autorità apostolica gli apostoli stessi e non i presunti successori degli apostoli. Nessuna persona che pone la sola fede nella testimonianza dei profeti e degli apostoli diventerebbe cattolica romana, ortodossa o protestante. Col passare del tempo, queste confessioni cristiane non hanno temuto di formulare a volte il non pensabile, perciò è giunto il momento che il cristiano si stacchi da ogni legame religioso che contraddica la scrittura e con un salto all'indietro di 2000 anni ritorni alle semplici parole degli apostoli e profeti. Se sei un cristiano, rivendica come unica autorità della tua fede la parola di Dio, perché passeranno i cieli e la terra, ma le parole di Gesù Cristo rimarranno in eterno. 2. Il cristiano è nato di nuovo. Giovanni 1, 12-13. Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Un cristiano è colui. La nuova nascita è quell'esperienza spirituale mediante la quale si diventa figli di Dio. Dopo 2000 anni di storia occorre ancora chiarire che la nuova nascita non si ottiene mediante un'eredità spirituale dei genitori nati da sangue, né mediante le buone opere, volontà di carne, né mediante un'autorità ecclesiastica, volontà d'uomo, ma si realizza solo mediante un atto di fede. Se la fede implica aderire a una testimonianza, ciò significa che un cristiano non si riterrà tale perché è stato battezzato da piccolo, ma perché ha realizzato la nuova nascita.

la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro, 2 Tit 2:22. Invocano il Signore, cioè Gesù Cristo, e non altri. Se sei un cristiano esprimerai la tua fede in una chiesa locale, i cui membri pregano e rendono il culto solo Dio, e sono nati di nuovo mediante un atto di fede solo in Gesù. 5. Il cristiano confessa la fede in Cristo, Romani 10:9-11. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. È impossibile essere cristiano. La nuova vita si deve manifestare ovunque, qualunque essa sia. Una vera fede produce il desiderio di confessarla. Ciò non significa che un cristiano debba essere un missionario o un predicatore, ma, appena ne ha l'opportunità, testimonia della sua esperienza di fede e dell'amore di Dio. Un cristiano non presenterà una religione nella sua fede, non si vergognerà di testimoniare di Gesù Cristo e della fede che ha posto in Lui. Il cristiano non è colui che è convinto di avere ragione, che crede che la sua fede sia quella giusta, che è certo delle sue convinzioni, ma è colui che crede che la verità sia Gesù e a Lui ha affidato le sorti della sua anima. Se Gesù non è la verità, per il cristiano non vi è alcuna speranza, né in questa vita, né in quella futura. Tutto diventa enigmatico. Egli inciampa in interrogativi senza fine. È la persona più disperata e vuota di questo mondo. Il cristiano è dunque colui che in Cristo, e solo in Cristo, ha trovato, una volta per sempre, la risposta e la soluzione a ogni interrogativo. Se sei un cristiano, non sarai fiero di appartenere a una religione e di difenderla, ma desidererai testimoniare agli altri del tuo unico Salvatore e Signore Gesù Cristo. 6. Il cristiano odia il peccato e ama la giustizia. 1 Giovanni 3:2-5-18. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. In questo mondo vi sono solo due famiglie, i figli di Dio e i figli del diavolo. I figli di Dio si distinguono non tanto per il loro parlare o dal vestire, ma per la loro condotta. Essi amano la santità, la giustizia e odiano il peccato. E, giusto e santo, non ciò che è ritenuto tale dagli uomini e dalla religione, ma tutto ciò che ha ordinato Dio. Il peccato non è trasgredire la morale della società e della religione, ma è la violazione della legge di Dio. Per un musulmano il giorno di riposo è il venerdì, per l'ebreo il sabato, per il cattolico romano la domenica. La religione è dunque opinabile. Per la nostra natura corrotta, il peccato, cioè la trasgressione alla volontà di Dio, è un'esperienza quotidiana, ma quando si diventa figli di Dio, il peccato diventa un incidente e non una prassi normale come prima. Il cristiano è colui che ha lo Spirito di Dio, e la prima caratteristica dello Spirito di Dio è la santità. Per questo è chiamato Spirito Santo. Un vero cristiano non è solo chi è santo, ma colui che ama la santità, non è solo chi non pecca, ma colui che odia il peccato. Lo Spirito Santo che abita in lui lo spinge ad amare ciò che Dio ama e odiare ciò che Dio odia. Desiderare di compiere ciò che è giusto e buono nel cospetto di Dio è una peculiarità del cristiano. Chi non ama e non ricerca la santificazione non può essere un cristiano e non ha lo Spirito Santo. I 10 comandamenti dati da Dio sul Monte Sinai sono senza dubbio il riassunto della sua volontà, e in essi possiamo trovare il divieto di inginocchiarsi davanti a qualsiasi tipo di statua, di pregare e venerare Maria e i santi, di confessare i propri peccati a un uomo. Se sei un cristiano, amerai compiere la volontà di Dio espressa nella sua parola e rifiuterai anche ciò che Dio odia. 7. Il cristiano ha la testimonianza dello Spirito. Romani 8:16. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Abbiamo tutti delle convinzioni profonde, ma per ciò che riguarda l'essere cristiano nessuno può esprimersi in merito se non per mezzo dello Spirito Santo. È vero che vi sono persone che affermano di essere cristiane e non lo sono, ma se esiste una testimonianza falsa, ciò significa che Vehecchi N è una vera. Un cristiano è colui che, oltre le prove esterne che stiamo esaminando, ha nel proprio cuore la testimonianza dello Spirito di appartenere per sempre a Dio. Egli sa di avere ricevuto la caparra dello Spirito Santo come anticipo per appartenere per sempre a Dio. Il cristiano è colui che si è riconciliato con Dio mediante la sola opera di Cristo compiuta una volta per sempre. I suoi peccati passati, presenti e futuri sono perdonati, perché dove ci è perdono di queste cose non ci è più bisogno di offerta per il peccato. Ebrei 10 e 18. Il cristiano si rende conto di essere stato salvato per grazia e per questo, come atto di riconoscenza, vive una vita santa e al servizio di Gesù Cristo, come unico Signore. Se ti definisci cristiano e non hai queste esperienze, puoi mettere in dubbio la tua fede. 8. Il cristiano comprende le scritture. Giovanni 5, 37-38, 1 Corinzi 2, 12-16. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto, e la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Una prova che le scritture provengono da Dio è che nessuno può comprenderle con la propria mente. L'uomo può afferrare nozioni storiche o geografiche della Bibbia, ma il suo messaggio spirituale non può essere compreso dalla mente umana. Satana stesso conosce e cita la parola di Dio senza capirne il senso. Al tempo di Gesù si leggevano con cura le scritture, ma queste erano sigillate alla mente dall'incredulità. Molte persone, una volta convertite, hanno gioito per lo Spirito, perché potevano finalmente comprendere ciò che enunciava la parola di Dio. Il cristianesimo è una rivelazione e questa rivelazione è comprensibile solo quando si diventa figli di Dio, perché si ha lo Spirito Santo. Il cristiano è colui che trova gioia e piacere nel leggere e studiare la parola di Dio per metterla in pratica. La sua coscienza sarà prigioniera della parola, la parola di Dio trasformerà la sua mente. Se sei un cristiano, leggerai la parola di Dio ogni giorno per osservarla, diversamente sospetta della tua fede. 9. Il cristiano si riconosce straniero e pellegrino, Ebrei 11 e 13. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Un cristiano abita in questo mondo, partecipa alla vita sociale come tutti gli uomini, ma ha una caratteristica, si sente straniero e pellegrino sulla terra. Ogni paese straniero è la sua patria. La sua patria è per lui come un paese straniero. Mangia, beve, dorme come tutti gli altri, possiede dei beni come tutti, ma costantemente ricorda a se stesso che egli è solo un amministratore di quello che possiede. Non dimentica di essere di passaggio, e le cose di questa vita, salute, denaro, capacità, le considera come doni con i quali glorificare Dio e fare del bene al prossimo. Gode della vita come nessun altro, ma contemporaneamente desidera di andare in cielo sapendo che è molto meglio. Il cristiano non aspetta la morte, ma la corona che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Questa speranza rende creativo il presente. La morte, per il cristiano, ha perso il suo pungiglione. Non è la tomba della sua esistenza, delle sue speranze, ma il passaggio da questa vita a un'esistenza migliore. Non è la fine, ma l'inizio è il momento per ricevere i premi che, per fede, ha accumulato sulla terra. Se sei un cristiano, nel tuo cuore abiterà costantemente il sentimento di essere uno straniero e un pellegrino in viaggio verso la casa, dalle molte stanze. 10. Il cristiano attende il ritorno di Gesù Cristo, 1 Tessalonicesi 1 e 10. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero, e per aspettare dai cieli il Figlio suo, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Anche da una lettura superficiale delle lettere degli Apostoli si comprende che il ritorno di Gesù Cristo costituiva una delle verità centrali della fede dei primi cristiani. Non è possibile credere nell'incarnazione, nell'opera e nella resurrezione di Gesù senza attendere il suo ritorno.